Allora, siamo con Giovanni Gandolfi, il gestore del Locomotive Club, a cui chiediamo di questa rassegna estiva e in che modo sarà organizzata e cosa troveremo. Ma noi abbiamo già iniziato come locomotive, trasformando la nostra biglietteria in un punto bar, per cui in realtà siamo già operativi tutti i giorni. La parte degli spettacoli inizierà ufficialmente questa domenica 23 maggio, con il primo di una serie di concerti che avverranno dalla terrazza del Bauhaus, che è l'associazione che sta al piano di sopra del Chinotto, per intenderci, che è il bar storico all'interno del parco del dopolavoro ferroviario, e ci sarà Guglielmo Pagnozzi con uno dei suoi progetti a intrattenere le persone sedute ai tavoli che consumano e socializzano. E poi abbiamo la rassegna all'Arena Puccini, invece, che avevamo già sperimentato la scorsa estate. Eravamo stati i primi in Italia a iniziare a fare una rassegna di concerti. Quest'anno iniziamo il 29 di maggio con uno spettacolo dedicato ai 25 anni del libro Bastogne di Enrico Brizzi, con tanti ospiti legati all'epoca in cui è ambientato il libro, per cui la prima metà degli anni Ottanta in sostanza, e questa prima tranche di rassegna in Arena Puccini andrà avanti fino al 12 di giugno, che chiuderà la rassegna con i Coma Cose, che faranno due spettacoli, uno di sera che è già tutto esaurito e quello pomeridiano per il quale sono rimasti ancora pochi, a dire il vero, biglietti. E poi proseguiremo anche per il resto del mese di giugno e anche luglio con la modalità parco, diciamo, all'aperto, per cui ci saranno dei mercatini le domeniche, ci sarà Atelier Chinotto, che invece è una manifestazione, diciamo, che dà visibilità a nuovi artisti della scena locale, non solo, e gli si dà la possibilità di esporre le proprie opere all'interno di banchetti dentro al parco. E poi ripartirà la rassegna in Arena Puccini il 6 di settembre e andrà avanti verosimilmente fino verso la fine del mese, con tanti altri concerti che inizieremo ad annunciare piano piano oggi, e poi nel corso dei giorni sarà svelato progressivamente il programma. E considerando anche la situazione Covid, come si potrà partecipare a questi eventi? Più o meno come l'anno scorso, si acquistano i biglietti sulla piattaforma Dice, per cui tutto digitalizzato. All'ingresso verrà scannerizzato il codice QR, per cui non c'è neanche contatto fra mani, contatto fisico, diciamo, all'ingresso. E poi ci sono i posti numerati, ovviamente, e ci si siede al proprio posto. Il distanziamento sociale è garantito dal fatto che si salta un posto fra i vari nuclei di partecipanti, che siano persone singole, coppie o famiglie da quattro anche in certi casi. Questa più o meno è la modalità di partecipazione, che è la stessa più o meno dell'anno scorso. Sono protocolli che quindi prevedono il distanziamento in tutte le fasi della partecipazione, per cui dall'arrivo all'ingresso, all'interno durante lo spettacolo e anche in fase di deflusso.